Messina, come ogni mercoledì dalle 7 alle 7 e mezza pomeriggio trasmettiamo notizie, dati, informazioni sulla Palestina e sui palestinesi. Oggi abbiamo in studio Marisa, che è tornata da un viaggio in Libano. In Libano, come mai, Marisa? Noi ci occupiamo di Palestina, e perché il Libano, allora? Sì, il Libano perché sono andata col comitato per non scordare Sabra e Shatila, che dal 2020, e portare anche solidarietà ai rifugiati palestinesi che vivono nei campi profughi libanesi. Ecco, perché mi pare che siano quanti? 10, 12 campi profughi palestinesi? Sì, sono, no? 12 campi profughi fra Beirut, Sidone, Tiro, la zona del Baalbek. Perché allora forse conviene dire due parole sulla situazione in Libano. Perché io mi ricordo, quando ero giovane, cioè moltissimi anni fa, il Libano era per noi una sorta di Svizzera del Medio Oriente. Oggi è un caos tremendo, con livelli di povertà e di distruzione gravissimi. Ecco, il Libano viene invaso periodicamente da Israele. Ora non sto a enumerare le guerre che sono state da parte di Israele verso il Libano. L'invasione, la più grave e la più nota, è quella per cui adesso Marisa è andata in Libano, è quella del 1982, in cui l'esercito israeliano illuminava il campo profughi di Sabra e Shatila, intanto che le milizie addestrate da Israele, milizie maronite, cioè della destra libanese, addestrate in Israele, massacravano una popolazione inerme. E fu una cosa assolutamente drammatica. Ma il tutto è cominciato, volevo ricordare da dove è cominciato il tutto, perché questo è importante sia per la storia di Israele sia per la storia del Libano. Il tutto è cominciato nel 1954. Nel 1954 c'era un presidente dello Stato di Israele che era Sharet. Questo Sharet era un uomo di pace, cioè era un sionista, ma era uno che cercava una soluzione pacifica, una soluzione almeno con i palestinesi. Si trovò di fronte due personaggi famosi, che uno era Dayan, capo dell'esercito, e l'altro era Ben Gurion, che è ultra noto ovviamente, perché si chiama così l'aeroporto di Israele, considerato una sorta di eroe, i quali due fomentavano la guerra, fomentavano la divisione del Libano. Il Libano aveva sempre avuto un equilibrio precario, più che precario, delicato, tra le varie componenti religiose, però era un paese, il paese dei cedri, no? Ce lo ricordiamo almeno, ancora adesso viene definito in questa maniera, per l'esportazione dei cedri, ma era un paese fondamentalmente in cui le componenti politiche e religiose si equilibravano o comunque avevano un certo loro accordo. Ecco, la politica e l'iniziativa di Ben Gurion e di Dayan fu quella di fomentare la divisione tra queste componenti, creando e sostenendo un cosiddetto esercito libanese del sud, capitanato da un certo maggiore Haddad, che era un uomo di Israele, era un libanese, un personaggio insomma, un quisling di libanese. E da qui poi sono derivate tutte le diverse guerre, invasioni sostenute da questo Haddad e dall'esercito del sud, e che hanno portato alla situazione attuale, cioè alla situazione di divisione, di conflitto e di estrema povertà. Ma veniamo, ecco, tutto questo è testimoniato, cioè questa azione e questa e queste divergenze anche ci sono state nello Stato di Israele, sono testimoniate dal diario di Sharet. È un diario che è stato pubblicato, in italiano si intitola Vivere con la spada, ed è estremamente interessante perché sono le testimonianze e il diario di questo Sharet, che il quale dice che lui non era per niente d'accordo con queste azioni che gli venivano fatte alle spalle di creazione di divisione e di guerra, non solamente nei confronti del Libano, ma poi anche nei confronti dell'Egitto. Beh, adesso abbiamo quindi in studio Marisa, che invece ci racconta che cosa ha visto e che cosa e quali sono state le sue impressioni. Sì, innanzitutto vorrei dire che non è stato facile a due giorni dal ritorno sedimentare le sensazioni, farsi abbandonare dalle emozioni, mentre ancora lo sguardo rimane incollato e indugia sul ricordo di ciò che ho visto e sentito. L'anno scorso sono stata in Palestina e fu lo stesso. E lì ho respirato un senso di soffocamento per l'occupazione, con i checkpoint, bypass road, il muro sempre incombente, i soldati israeliani armati in pattuglia nelle strade. Ho visto fermare ragazzi sottoposti a perquisizione, messi a mani alzate contro i muri delle case. Un'occupazione che comporta indicibili pene, privazioni, soprusi e perdite di vite umane. Il Libano, ecco, il Libano, oltre queste indicibili pene, privazioni e soprusi, respiri l'anelito di un popolo che reclama il suo diritto al ritorno. Lo vedi scritto sui muri, sugli striscioni, lo senti nelle parole delle persone che incontri. È un urlo che però rimane inascoltato. E del popolo palestinese, intendi? Certo, certo. Sì. E alle nuove generazioni viene tramandata la memoria, il ricordo della terra promessa, quella abbandonata forzatamente dagli avi, dai nonni, e crescono con questa promessa di ritorno, stampata veramente nel cuore, lo percepisci, con la speranza incancellabile che questo prima o poi accadrà, che prima o poi dovrà accadere. Ecco, dopodiché, cosa dire? L'esilio dei palestinesi in Libano e non solo in quel paese dura da ben 71 anni. All'inizio la gestione dei campi fu affidata alla Croce Rossa col compito di distribuire tende, alimenti e prestare le prime cure. Poi nel 49 l'ONU istituì l'UNRWA, l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi, con l'incarico di provvedere agli aiuti dalla sanità, all'istruzione, affari sociali e lavoro. I rifugiati palestinesi in Libano sono arrivati in diverse ondate. I primi nel 48 originari del nord della Palestina, da Acre a Safar e dai villaggi della Galilea. Altri ancora nel 67, in seguito alla guerra dei sei giorni, e poi nel 70, dopo Settembre Nero in Giordania. Perché da quello che io so, i palestinesi non sono ben accettati nel Libano. D'altra parte vorrei vedere una nazione dove i profughi sono ben accettati, pensiamo all'Italia. E dacci magari qualche numero, quanti sono i palestinesi e questi profughi, in che termini incidono sulla popolazione totale del Libano? Allora, i profughi palestinesi attualmente sono 450.000. Quelli registrati. Che poi ce ne sono sempre di più, no? Ma appunto nei campi che ho visitato, ai profughi palestinesi si sono aggiunti, dopo il 2011, anche l'ondata dei siriani, che sono 1,5 milioni, i siriani. Poi sempre nei campi ci sono anche i libanesi, perché il Libano ha su una popolazione di 4,5 milioni circa 1 milione di libanesi in condizioni di povertà, e quindi vivono tutti, diciamo, ammassati, come ti racconterò, nei campi. Perché fra i profughi, quelli che vivono in Libano, sono forse quelli che stanno peggio. È stata varata da poco una legge razziale che discrimina i 450.000 palestinesi equiparandoli a stranieri. Pensa un po'. E come tali viene richiesto l'obbligo di un permesso di lavoro per svolgere qualsiasi attività. Quindi, in quanto privi di cittadinanza, non possono accedere a nessun lavoro statale, né essere iscritti agli albi dei liberi professionisti. Nel complesso sono precluse circa ben 72 professioni. Questo sia ai palestinesi che ai profughi siriani, cioè a tutti i profughi, oppure i profughi palestinesi sono considerati No, sì, particolarmente palestinesi, da sgraditi? quanto ho Perché, capito. dunque, ecco, dal conto che facevi tu prima, e da quello che faceva anche Gianni, un terzo della popolazione globale del Libano è di profughi. Eh Quindi sì. 30%, siamo 30-33%. Ora pensiamo che diciamo, il livello un po' di guardia per una immigrazione è considerato l'8%, quando un paese comincia a mostrare segni di difficoltà. Ecco, Sì, pensiamo al 33%, che co cosa deve e essere? questo porta attenzione perché chiaramente sono visti come quelli che sottraggono il lavoro, minano la sicurezza del paese, concetti già sentiti, insomma, no? Quindi non vivono bene. E fra l'altro i servizi elementari all'interno dei campi come acqua corrente, elettricità, fogne, linee telefoniche, strade asfaltate, mancano. E poiché non è permesso oltrepassare il limite del perimetro assegnato, che è 1 chilometro quadrato, l'enorme densità abitativa dovuta non solo ai primi, appunto, profughi e alla loro crescita naturale, ma negli ultimi anni anche ai rifugiati della guerra in Siria, è risolta alzando sempre più piani sopra le case esistenti. Quindi vedi costruzioni verticali come tante scatole una sopra l'altra. Nei campi regna la povertà, la sporcizia e pessime, credimi, pessime sono le condizioni igieniche causate soprattutto dal problema della raccolta dei rifiuti. Abbiamo visitato 5 campi. Ti parlerei prima della visita al campo di Shatila, che è stato quello per i quali appunto si è formato questo comitato per non dimenticare Beh, Sabra. il campo di Sabra e Shatila credo che meriti una descrizione apposita. Facciamo un momentino di musica anche per riprendere, per confortarci, perché la descrizione di Sabra e Shatila è veramente terribile. Bene, allora Marisa su Sì, Sabra e Shatila, che cosa rimane di Sabra e Shatila oltre al ricordo nostro e di quelli dolorosissimo di quelli che ci sono? Ma c'è un monumento, c'è un ricordo, c'è una memoria, c'è. Ecco. allora, Shatila fu rasa al suolo, tant'è vero che le case non hanno fondamenta, nel senso che sono state costruite spianando le macerie. E infatti quello che si vede è il risultato di questo sistema abitativo. Shatila si trova a sud di Beirut e ospita attualmente 30.000 persone, di cui 8.000 palestinesi e rifugiati siriani sono la maggioranza, ben 17.000. Arrivate dopo il 2011. Shatila è il rifugio di tutti i poveri. È il più densamente popolato. I vicoli sono strettissimi, contorti, bui. I muri delle case, si alzi lo sguardo, paiono toccarsi, reggersi a vicenda. Le fondamenta, appunto, come ti dicevo, non esistono. Le case sono state costruite spianando, appunto, le macerie del campo. E percorrendo i vicoli, vieni avvolto da una fitta ragnatela di fili elettrici, direi mortali, perché si mescolano ai tubi dell'acqua e i passi si immergono liberi di acqua sporca e in taluni punti il tanfo è veramente insopportabile perché ristagna lì l'immondizia che non viene raccolta. E 3/4 del campo acqua salata a causa della vicinanza del mare. C'è una scuola comunque gestita dalla RUSNA, 10 asili nido gestiti da varie ONG, fra cui anche quella che ha organizzato il viaggio a Somud. E il mio gruppo quella mattina si è diviso per andare a visitare le famiglie del campo. Sono stati incontri veramente commoventi, testimonianze dolorose con persone che ti davano un senso di dignità nella loro tragedia e che ti faceva rimanere ammirato per la forza di resistenza e sopportazione da domandarti se anche tu saresti capace di tanto. E sì, abbiamo portato già quella mattina una corona al Memoriale dei Martiri, ma la vera celebrazione si è fatta qualche giorno dopo, quando insieme a varie autorità, il sindaco della municipalità dove si trova Shatila, l'ambasciatore della Palestina in Libano, abbiamo formato un corteo e siamo andati a portare le corone al monumento Ricordo dei Martiri del Massacro, che si trova, questo monumento, posto proprio sopra la fossa comune, che per anni è stata una discarica. Quindi un silenzio assoluto, no? Nel ricordo e diciamo, il pregio che si può dire di Stefano Chiarini è quello di aver lottato e di essersi impegnato tanto che alla fine ha ottenuto che diventasse un luogo degno di memoria. Ora lui non c'è più, ma chiaramente il suo impegno continua con quelli che continuano nell'associazione e il progetto di costruire un proprio e vero mausoleo. Io voglio ricordare che sul massacro di Sabra Shatila c'è un film che è un film fatto da dei tedeschi e che è una serie di interviste ai massacratori, cioè a quelli che perpetrarono il massacro, i quali raccontano come sono stati addestrati e come operavano. Il film si chiama Massacre ed è veramente sconvolgente. Sì. Perché è semplicemente un'intervista dopo l'altra a queste persone. Ti assicuro, lascia senza fiato. Ecco, una domanda. Dunque, Sabra Shatila, perché purtroppo la storia dei palestinesi è una storia di massacri. Ce n'è stato un altro, cioè Sabra Shatila è del 1982. Nel 1976 invece c'è un altro massacro, che è quello di Tal el-Zatar. Che vuol dire collina Collina del Timo. del Timo, mi pare. Tant'è Siete vero? stati anche a Tal el-Zatar, No, voi? hai fatto bene a ricordare questo perché l'associazione Beit Atfal al-Sumud, che vuol dire la casa dei figli della resistenza, che è stata fondata nel 76, proprio dopo il massacro di Tal el-Zatar, che era avvenuto appunto in quell'anno durante la guerra civile libanese. E quindi questa associazione è stata proprio voluta da Arafat e è stata finanziata da lui fino all'82 per offrire assistenza e accoglienza a numerosi bambini rimasti orfani da questo massacro. Ora, scusa, ora è passata a Qassem Aina, che io ho conosciuto nelle sedi di Assomud e nei vari campi in cui siamo andati. E, una persona meravigliosa ci ha sempre accolto con un sorriso che esprimeva la sua gratitudine per essere noi lì in delegazione come testimoni, perché non basta andare e rendersi conto. Fare un viaggio del genere serve anche per diventare testimoni. In senso attivo, politico, cioè tornare e informare, parlare, come questa trasmissione, questo spazio può essere un modo per farlo. Una domanda, ma da questi campi i palestinesi possono uscire, entrare, i No, commerci come no, avvengono? fra i Ecco. diritti negati ai palestinesi in Libano c'è anche quello del libero movimento. Non hanno libero movimento, e quindi oltre altri diritti come quello appunto che dicevo prima di non poter svolgere libere professioni, quindi assenza di possibilità di un lavoro degno, no? Non sottopagato a nero, non hanno il diritto ad acquistare case e terreni, non hanno diritto alla pensione, chiaramente non trovano neanche lavoro, non hanno diritto alla salute, non possono formare sindacati, quindi non hanno diritto di associarsi e quindi anche lo spostamento insomma, è difficoltoso, non hanno libero movimento. I bambini riescono ad andare a scuola? Cioè le scuole sono Sì, funzionanti? questa associazione Assomud e anche l'UVRA e altre ONG sono presenti nei campi e si occupano veramente di tutto quello che manca da parte insomma, dello Stato libanese e quindi si occupano di servizi socio-sanitari, educativi, con asili, scuole materne, elementari che abbiamo visto e fra l'altro anche questa associazione che sto parlando in particolare si occupa anche di rendere fieri i giovani di essere palestinesi, nel senso che coltivano l'aspetto culturale attraverso la storia e la geografia della Palestina, dell'arte, della letteratura, della musica e quindi diciamo che è un esempio, un modello di welfare che nasce dalla resilienza, dalla resistenza del popolo palestinese. E c'è una Quindi differenza tra un campo e l'altro? Come si presentano i campi? Ci sono le bandiere, ci sono delle mura? No, come sono delimitati questi campi? No, i campi C'è un sono. ingresso, c'è una sorveglianza, c'è un. I campi si presentano come appunto un agglomerato, ti dicevo, di 1 chilometro quadrato di case alte, verticali. Entri in queste stradine, non c'è un ingresso principale, insomma. Però quelli che abbiamo visto più o meno non si differenziano molto. Sì, uno al nord, verso Tripoli, mi ricordo, dove siamo andati una mattina con 3 ore di cammino. Aspetta, come si chiamava? Il campo di Nahr el Bared, ecco, Nahr el Bared. Ecco, in questo campo, dal momento che c'è stata un'infiltrazione nel 2007 di Fatah al-Islam per sicurezza. Questo Fatah al-Islam, che cos'è? Sono estremisti? Sì, Ah, ho capito. decisamente. E quindi ci sono stati, insomma, combattimenti per bonificare questo campo. E quindi vicino al campo vecchio, che è stato appunto pressoché distrutto, ne stanno costruendo uno nuovo. Ma dopo 12 anni da questo evento, il progetto di ricostruzione non è ancora terminato. E ancora circa 1.500 famiglie aspettano di entrare. Per il momento sono nei campi adiacenti. Ecco, per sicurezza, qui ci hanno chiesto i passaporti. Il controllo dei passaporti prima di entrare e le strade sono state allargate per far passare le macchine, no? E questo a scapito delle abitazioni che si sono ristrette perché lo spazio comunque deve essere sempre quello di 1 chilometro quadrato. E qui siamo andati nei vicoli, c'erano palazzi in costruzione e forse mi è sembrato un pochino meglio di altri che si è visto, insomma, come ti ho raccontato prima, insomma, più che altro appunto quello che ti continua ad arrivare davanti agli occhi è questa ragnatela di fili volanti in tutti questi vicoli stretti, che come dicevo è pericoloso perché accanto ci sono anche le cisterne d'acqua, insomma. Gli altri non so, ma non penso che la situazione sia molto diversa, insomma. Quello che mi è piaciuto è vedere, ecco, l'esistenza di scuole, asili, bambini quando sono arrivati, impegnati, insomma, a far vedere che facevano disegni. Quindi c'è una presenza sia di questa associazione che anche di altre che si occupano. Il problema, sai cos'è? Abbiamo avuto l'incontro con un esponente del Louvre, che è un organismo al quale stanno per essere, se non sono già stati, tagliati i finanziamenti. E sembra che l'USA abbia fatto un taglio di 300 milioni di dollari. E E i questo. giovani, ecco, i giovani hanno possibilità di fare qualche sport, di fare qualche cosa, no? Immagino un disastro, no? No, non ho visto campi da calcio che mi ricordi. Io ho visto più che altro queste scuole. Ho visto negli occhi dei bambini tanta gioia di comunque vivere, di oltrepassare forse la miseria quotidiana, no? Gli occhi struggenti ti rimangono veramente ancora tanto, forse per sempre quando ritorno da viaggi. Anche se poi gli stessi giovani ci hanno dato un momento molto, molto bello perché in un campo dove siamo andati hanno fatto un concerto. Il campo era quello di Burj Shalami. E hanno formato due bande con i vari strumenti, anche le cornamusa, ed è stato bello vederli cantare, vederli sorridere, ballare, gioire, e con questa musica che fa parte della loro cultura popolare, della loro terra lontana. Sono generazioni che sono nate lì, che non hanno mai visto la Palestina. Anche i genitori sono nati lì e quindi quello che ti dicevo prima, la sensazione che mi è rimasta, no? Lo senti questo lo soffocato, questo anelito nel pensare a una terra che gli è stata promessa ed è promessa e al quale vogliono ritornare, perché qui non hanno diritti, non hanno patria. Bene, allora se vuoi dirci ancora qualcosa sulle tue emozioni, beh, ben volentieri. Comunque volevo ricordare che adesso abbiamo intervistato Marisa che è appena tornata 2 giorni fa dal Libano, ma vorremmo organizzare, anzi diciamo è in corso di organizzazione, qualche cosa di un po' più ampio tra le diverse delegazioni che sono state in Palestina e in Libano. Si tratterà di un'iniziativa in un luogo pubblico che si sta prevedendo di svolgere durante il mese di ottobre. Ne daremo annuncio anche attraverso Radio Wombat e quello sarà un momento di confronto anche delle diverse situazioni e di approfondimenti rispetto a quello che oggi vi abbiamo detto. Vi ringraziamo del vostro ascolto e vi salutiamo per la prossima volta, per il prossimo mercoledì. Marisa? Arrivederci.